Cosa hanno in comune Heidi, Anna Shirley, nota come Anna dai capelli rossi, Mary Lennox de Il giardino segreto e Pollyanna? Beh, sono quattro bambine, simbolo di forza, coraggio, determinazione e indomabilità, protagoniste di altrettanti romanzi divenuti classici della letteratura e create dalle penne di quattro stupende donne tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento: Johanna Spyri, Lucy Maud Montgomery, Frances Burnett e Eleanor Porter. Quando nel 1913 l'americana Eleanor Porter pubblicò il romanzo Pollyanna, non poteva immaginare che la sua ragazzina dal cuore felice sarebbe diventata una sindrome, tra virgolette. Eh sì, perché Pollyanna, un'orfana che viene adottata da una zia arida e fredda, sopravvive alle difficoltà e alla tristezza grazie al suo gioco della felicità, che consiste nel trovare comunque un motivo per essere felice anche nei momenti critici. Ma la cultura materialistica duale ha completamente travisato o volutamente distorto il bel messaggio del romanzo, trasformando la ragazzina e il suo gioco in una sindrome, quella dell'ottimismo idiota, come recitano i trattati di psicologia, ovvero l'attitudine di chi mette la testa sotto la sabbia e fa finta di nulla inventando realtà positive e fittizie per scappare da quella reale. Fa davvero male al cuore che un messaggio così potente come quello del pensiero positivo, che oggi in ambito quantistico si sta ampiamente rivalutando, sia stato bollato come qualcosa di idiota. Tutte le tecniche psicodinamiche, che siano di matrice occidentale o che provengano dallo yoga, insegnano che la felicità non dipende da fatti esterni, ma è uno stato dell'anima che si sceglie di provare. In sostanza, non sono felice perché mi vanno bene le cose, ma mi vanno bene le cose perché sono felice. Nello yoga nidra, per esempio, si usa focalizzare un pensiero positivo da elaborare durante il sonno in modo da materializzarlo, e a nessuno viene in mente di bollare la cosa come idiota. Ma siccome Pollyanna è una femmina, creata da una femmina, e in più che si aiuta da sola, senza ricorrere a una divinità maschile trascendente da supplicare e a cui affidare la propria anima per essere felice nell'aldilà, ecco che allora sorgono i problemi. Pollyanna usa una semplice ma efficace tecnica che oggi potremmo definire di problem solving, che le permette di far fronte ai problemi in maniera concreta, immediata ed efficace. Pollyanna è classificato a torto come letteratura per ragazzi. Si tratta viceversa di un delizioso racconto che ad una mente sveglia pare tutt'altro che semplicistico o infantile e che insieme ad altri del genere, ricordiamo appunto Anna dai capelli rossi, Il giardino segreto e Heidi, tocca l'anima e il cuore con una dolce carezza di gioia, positività e purezza. Nella sua breve vita, la piccola Pollyanna deve attraversare un mucchio di difficoltà, eppure trova sempre un motivo per rallegrarsi, fino alla disgrazia finale di fronte alla quale candidamente lei stessa dichiara tra le lacrime di non trovare nemmeno un motivo per essere felice. Naturalmente il tutto si risolve bene e la lettura del breve romanzo ci lascia incantate per la dolcezza della storia e la bellezza interiore di questa orfanella che, al pari di altre orfanelle della letteratura, forse perché femmine uscite da penne femminili, sono state sminuite, ridicolizzate e incomprese. Ma ascoltando la storia di Pollyanna, descritta dalla prolifica, anche se poco conosciuta, Eleanor Porter, e più volte portata al cinema e in TV, non si pensa a nessuna sindrome, tantomeno una che possa essere definita ottimismo idiota. Idiota è semmai chi può definire idiota l'ottimismo. Lasciamoci inondare da una doccia di luce, che mai come in questi tempi è necessaria, con tanta gratitudine per le parole che la piccola pronuncia e che rinfrancano ancora noi adulte un secolo dopo. Da Devana, buon ascolto.